24. Storie di star. Se fosse una città, cosa sarebbe? Roma. Cosa sarebbe se fosse una città? Troppo banale Roma, eh? Scopello. Pasto. Caviale. Le settioline fatte col sugo. La pasta. La carbonara. La trippa. Un animale. Fosse un animale. Un animale con le corna. Un toro. Un mandrillo! Un'ora? Notte fonda, molto fonda. Le quattro. Le quattro. Le quattro. Se fosse una canzone. La canzone Franco Califano è Tutto il resto è noia, quella lì in su. O banale, non banale, sei quello, Franco. E la gente quando lo vede canta Tutto il resto è noia. Ultimamente ha subito un furto in casa, gli hanno rubato un sacco di cose, gli hanno lasciato la sua macchina e i ladri spiritosi hanno avuto l'ardire di scrivere sulla sua macchina: Afra, non ti preoccupare, tutto il resto è noia. E allora, se fosse una storia, quella di Franco Califano sarebbe la storia di una leggenda della musica italiana. La storia di un uomo che ha scritto molte delle canzoni più cantate e ascoltate degli ultimi anni. Personaggio stravagante, eccessivo, trasgressivo, graffiante, autoironico, Califano è stato sulla breccia per oltre 50 anni. Ha vissuto il trionfo e l'oblio, il successo e la prigione. Ha scritto melodie indimenticabili e ha amato le donne, tante e bellissime. Poi nel 2000 ha incontrato un altro grande artista e per lui è iniziata un'ennesima nuova stagione di vita. Questo è il ricordo di Fiorello. È quasi sera. Io sono fuori, ormai anche i negozi non ha più colori. Nel 2000 io inizio la mia, diciamo, seconda parte della carriera e, diciamo così, mi viene da fare l'imitazione di Franco Califano, avendo una voce così particolare, insomma, bene o male tutti gli imitatori si sono dati a imitarlo. Cammino il centro, mi faccio un giro. Ma quella che facemmo noi all'epoca a Stasera Pago Io, il primo Stasera Pago Io sulla Rai 1, era divertente in quanto le cose che diceva il mio Califano erano proprio divertenti, che era, insomma, si parafrasava un po' il sesso con il mangiare. Quella imitazione ebbe veramente successo e fu l'imitazione che spinse proprio il programma, tant'è che poi all'ultima puntata Califano venne, ci incontrammo, lui da uomo di spirito intelligente si mise al gioco della gag. Si è diventata una tragedia, non ce la faccio più. Una volta su sto tavolo c'erano poesie, penne e carte pergamene. Franco! Mi ha combinato tutto sto casino. Chi è che ti ha rovinato? L'altra volta un bambino in mezzo alla strada ha detto al padre, passavo io. E ha detto, ma quello non è quello che mangia sempre. E poi ha detto, sì, è Califano. E quello mi è venuto a chiedere, non ce la faccio più. Hai via a mangiare. Io non ce la faccio più. L'altra volta passavo in una strada vicino a casa mia, esce fuori un macellaro di corsa. A Califo, dico di che buona cosa da mangiare, io non posso. E quindi, di conseguenza, successo per me, successo per l'imitazione, successo per Franco. Franco ha cominciato a concerti, insomma, è stata una cosa molto bella, sia per me che per Franco. E non ci siamo più fermati, Franco, non ci siamo più fermati. Roma nuda. Io faccio, non c'è più tu, papà. È vero, ma che è? Franco, non si può. In radio ci siamo proprio divertiti, ma divertiti proprio a ridere alle lacrime. Se l'incontro con Fiorello segna l'ennesima rinascita di un grande artista, Franco Califano è stato per mezzo secolo un personaggio amatissimo dal pubblico e dai colleghi. Forse perché, al di là delle note e delle melodie indimenticabili, è stato sempre un uomo che sfuggiva ai cliché. Una continua sorpresa. Il tempo passa per tutti, per me un po' di meno, perché io mi sento sempre giovane, giovane in tutti i sensi. Giovane perché mi circondo dei giovani, giovane perché frequento i giovani, giovane perché non mi piacciono le persone cosiddette anziane, per me la parola anziana dovrebbe scomparire dal vocabolario. Per me esistono gli adulti, gli uomini maturi e i giovani. Giovani lo si è sempre se lo si vuole. Anche il meglio delle favole. Quando ci metti le viscere, ci metti il cuore e credi quello che canti, può essere anche raffreddato, va bene uguale. Così come vado bene io oggi, che canto senza voce, ma vado benissimo. Posso stonare, squadrare, fare di tutto, ma la mia storia mi porta ad essere appunto uno di quelli che si può permettere anche di sbagliare. Addirittura nel titolo, sono 3, 4, 5 parole, non di più. Lui è riuscito a sintetizzare proprio lo spirito da reporter, il reporter dei sentimenti. Dunque, un reporter dei sentimenti per Antonello Mazzeo, musicista e grande amico di Califano. La sua avventura inizia praticamente con la sua nascita nel 38 a Tripoli, per caso durante uno scalo aereo. Un'adolescenza difficile nella periferia napoletana e poi una successione di collegi da cui il giovane Califano scappa a ripetizione, in testa un unico sogno, Roma, la città che rimarrà per sempre la sua casa e con cui sarà sempre identificato. Queste le sue parole. Chi sei? E chi sono? Nato a Tripoli, romano d'adozione per libera scelta, di genitori napoletani. 4 anni di collegi, un padre morto a 18 anni, quando io ne avevo 18 naturalmente, lui ne aveva 38 solamente. Ho dormito nelle macchine per un anno, ho mangiato dei panini per un paio d'anni quando ho lasciato casa a 18 anni. E la mia è stata una vita di corsa, ho corso sempre. Le canzoni sono mille quelle che ho scritto, ma ci vorrebbe un'enciclopedia televisiva per citarle tutte o per raccontare la storia di tutte. Io ho sempre scritto tutto da giovane perché probabilmente ero 20 anni avanti. Lo sono sempre stato 20 anni avanti e lo sarò sempre, penso io, perché ho vissuto più degli altri. Sono andato a letto 5 minuti più tardi degli altri per avere 5 minuti in più da raccontare. Quindi sono un uomo raro, come ripeto. Mi faccio i complimenti da solo, ma chi se ne frega. Franco Califano è pieno di cicatrici e non fa nulla per nasconderle. Prima di trasformarsi in un cantautore di successo, è stato attore, playboy, paroliere ed ha avuto per amici bulli e pupe. Ha aperto e chiuso i conti con gli uomini e con la giustizia. Il suo personaggio è un miscuglio di fascino e di arroganza, la sua voce è fumosa come un gesto e racconta da anni al pubblico il diario segreto di un uomo da strada. Io prima facevo il poeta, ma ho capito subito che di poesia si muore di fame, per cui ho trasportato le mie poesie in testi musicali. E quindi ho scritto da molto lontano che la canzone ha portato successo Edoardo Ianello non so quanto tempo fa. Poi ho capito subito, ho chiesto anzi, quale fosse la capitale della canzone. E mi dissero che era Milano la capitale della canzone musicale allora. E io mi trasferì a Milano con 30.000 lire in tasca, con una Taunus 17S vecchia scassata, e a Milano professionalmente, almeno fu subito successo, perché la prima canzone che scrissi, la seconda in assoluto, la prima che scrissi a Milano, fu E la chiamano estate, appunto. E la chiamano estate. Poi dopo ho continuato a scrivere, sono diventato direttore artistico dell'Ariston a 26 anni, già giovanissimo, e continuavo a scrivere per altri. È nata per esempio La musica è finita. La musica è finita è una canzone che è stata assegnata da Ornella Vanoni, la musica di Bindi, il grandissimo Bindi. Ecco, la musica è finita. Io stavo lì e aspettavo le richieste dei grandi, dei cantanti di allora. Posso fare un esempio di questo senso, di una canzone richiestami, dopo che a fare il testo erano stati tutti, nessuno era riuscito a fare il testo di questa canzone. Alla fine si sono ricordati che c'era anche Califano a Milano, come ruota di scorta mi hanno chiamato all'ultimo, mi hanno fatto sentire questa musica, dicevo nessuno è riuscito a fare il testo, probabilmente è una musica soltanto destinata a rimanere tale, solo musica. Provaci tu. Io amo i concorsi, quando c'è da fare un concorso mi ci infilo dentro perché mi piace arrivare primo di brutto. E presi questa canzone e chiesi i testi di tutti gli altri colleghi e pseudotali, lessi tutti i testi, Capito era l'errore di tutti, e io feci una cosa per conto mio, ci misi 3 ore a scrivere Minuetto. Vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù. Lei appena l'ho letta, l'ha cantata piangendo e adesso è diventato il mio cavallo di battaglia. A casa quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi. Io lo so che ci sto, pare che mi vada, avrò tutta qui e sarà per una notte. La la la. Minuetto è la canzone che anche ancora oggi è una pietra miliare, una delle più belle canzoni che ci siano in Italia, scritte da ieri, cantata oggi dai ragazzi e sarà cantata anche domani. Minuetto suona per noi. Utilizzare tutta la fantasia per scrivere canzoni come La musica è finita, Minuetto, Io non piango, Tempo piccolo e tante tantissime altre. Poesia e musica che raccontano una vita spericolata, approssimata per eccesso, una vita piena di amici, di passione, soprattutto di donne, a cominciare da quella che Califano stesso definisce l'amore più importante della mia vita, così il ricordo di Mita Medici. Arrivo a Milano per incidere un disco e Minà, che ci parlava spesso di questo Califo perché è un po' il suo alter ego, diciamo, in qualche modo, anche fisicamente, insomma, per vari motivi, erano molto amici, e dice c'è il califfo, e dice vabbè allora vieni, no, allora ve lo porto, lo presenta al bar, insomma, finalmente ci presenta Franco Califano. Me innamoro di te, se no che vita è, lo faccio un po' per rabbia, un po' per un stasera. Franco mi dice, ma che fai oggi? Perché era pomeriggio, diciamo così, insomma, in qualche modo subito evidentemente qualcosa era accaduto. Dico, ma io vado al cinema con le mie amiche. Ah sì, è che andate a vedere qui, qua. E Franco dice, vengo anch'io. Questa fu la cosa, questo fu forse uno dei suoi più grandi gesti d'amore. Senza sforzarmi già te voglio bene, spero che duri un po' di settimane. Da quel giorno lui lavorò per tornare a Roma, per fare la sua base a Roma, e da allora poi mi chiamò appena, insomma, mi chiamò ed è nata questa storia. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo e come piove. È romantico? Molto. È sincero? Il giusto. Vive alla sua maniera, solo in mezzo a tanta gente. Franco Califano ha però soprattutto un pregio. È vero, autentico. Quando compone, quando canta, quando vive. Ritengo di essere di vivere in un mondo tutto mio, cioè non faccio la vita dell'uomo medio, non faccio la vita dell'uomo normale, faccio la vita, brucio la vita attimo per attimo, sempre in viaggio, vivo in maniera abbastanza scombussolata, per cui sono un uomo medio che vive in maniera diversa. Ma perché la chiamano Califfo lei? Ma mi chiamano Califfo appunto per questo mio are. Le donne sono state una componente importante nella sua vita. Scherzi a parte, le donne sono importantissime, soprattutto perché sono le mie ispiratrici. Comunque è rimasto un grande affetto fra di noi, sicuramente. Perché è un poeta. I poeti si amano, comunque. Come l'amore detta. Ha avuto una moglie lei? Io ho avuto una moglie a 19 anni, 19 anni e mezzo mi sono diviso e a 24 mi sono divorziato. Dovrei farti partire ogni tanto. Io a farmi una famiglia non ho sempre pensato, solo che è una grossa responsabilità oggi mettere al mondo dei bambini. Dopo alcuni anni ho rafforzato l'idea della responsabilità di mettere al mondo un figlio. Io non amo molto quelli che stasera vanno a ballo insieme e domani è incinta, insomma. E i gossip, cioè i figli si fanno con delle responsabilità, con la testa, Favo figlio, e favo figlio. Insomma, un uomo di eccessi, nella vita come nello spettacolo, sempre e comunque sopra le righe con qualche inevitabile caduta. Nel maggio del 70, all'apice della sua carriera come paroliere, il Califfo viene arrestato insieme a Walter Chiari e a Lelio Lutazzi per possesso e spaccio di stupefacenti. Un anno dopo viene assolto per non aver commesso il fatto. Poi però, nel giugno dell'83, la storia si ripete. Questa volta Califano finisce nella maxi retata del Venerdì Nero della Camorra. Il venerdì che vede coinvolto anche Enzo Tortora. Ma anche questa volta, e come Enzo Tortora, Califano viene assolto perché il fatto non sussiste. E anche il carcere, la droga, che da un lato segnano l'uomo, dall'altro entrano nel repertorio dell'artista. Io mi porto appresso quello che mi sono portato appresso e che continuo a portarmi appresso, ma lo tengo per me e ritengo di essere un uomo coraggioso, forte, di classe. Anche se questo potrebbe far ridere. Se voglio un corpo e un po' d'affetto, faccio un giro, cerco un letto e una donna che ci sta. Poi ha flirtato con la droga. Ho avuto le mie esperienze anche con la droga. Cosa si prova quando ci si trova in una cella? Si prova molta amarezza e moltissima rabbia. Ma è un'esperienza importante? È un'esperienza terrificante, ma che sicuramente ti può risultare l'esperienza più positiva nel futuro. Vivo la vita, così alla giornata, con quello che dà. Ho fatto tanti errori nella mia vita, errori perché nessuno mi ha insegnato a non farli, quindi l'ho fatti, li ho pagati senza isterismi e senza piagnistei. Beh, io mi sentivo un uomo provvisorio fino a mezz'ora fa. Adesso ho dentro una carica nuova, straordinaria, che mi darà il tempo e la voglia di fare, di rifare veramente tutto, di ricominciare veramente da capo. Una vita peraltro che già sta andando molto bene professionalmente, per cui sono veramente un uomo felice. Mina mi ha scritto nel momento in cui ero detenuto a Re Bibbia. Califfo bello, sono in sala e ho appena fatto questo pezzo che è anche tuo. E non è solo per questo che mi sei venuto in mente. 4-5 righe su un foglio che tengo incorniciato in fondo sopra il letto. Ti penso spesso con tenerezza. Vorrei che tu fossi magari al mare adesso che c'è caldo. E lei mandò questo biglietto che mi commosse e mi fece molto piacere. Non cadere più in quei posti, mi disse. Ti prego, ti voglio tanto bene, tua Mina. Ti voglio bene. Scrivimi se vuoi. Tua Mina. Bellissimo. Io sono tosto. Io come tutti i miei mali ce li ho avuti, non li ho mai raccontati come fanno certi. Non me ne frega niente di raccontarli perché non voglio che si dica mai che tenerezza, che pena. Cerco di avere sempre un aspetto gradevole, sorridente quando è possibile, quando non trovo rompicoglioni in mezzo alle palle. E per il resto va bene così, insomma. Da quando a casa non ci sei più tu, le lettere sono ormai una rarità, di tutto resto che ne parlo a fa. È la malinconia. Un inedito prezioso questa lettera di Mina a Franco Califano. È il segno di un legame di amicizia e di solidarietà tra due grandissimi della musica. Come forte fu il rapporto che unì Califano ad un altro gigante della musica italiana, Luigi Tenco. Nelle parole del Califfo, il ricordo della tragica notte in cui a Sanremo Tenco morì. Quell'anno infame in cui lui si tolse la vita, devo andare insieme a Sanremo. Io ero in un albergo, lui stava in un altro. Quella sera mi ricordo che rientrai alle 3 di notte, trovai un biglietto in cui c'era scritto Franco vieni subito Luigi. Io corsi all'albergo dove stava lui ed era morto. Guardare ogni giorno. Nessuno le sa queste cose, io non ho mai fatto il premio Tenco perché non mi hanno mai invitato. E questo è il motivo per il quale io dico sempre che non ho colleghi, che questo mondo va tutto un po' schifo. Si muore e un bel giorno dire basta e Ciampi veniva a sentirmi con il suo fiaschetto di vino sotto il braccio, appena aspettava io cantassi, soprattutto io non piango, però si sta un po' pensando a lui. Io non piango per qualcuno che muore, non l'ho fatto manco per il genitore. Umberto Bindi è stato il terzo che purtroppo è morto e non avrebbe dovuto, perché lui era troppo straordinario a fare musiche e quindi se n'è andato troppo in fretta. Quando casco nello sguardo del cane vagabondo. A noi, cioè, noi abbiamo la libido di sentirci isolati, insomma, non è che lo facciamo con vittimismo. Io sono solo perché sto bene da solo, anche perché sono irrequieto, ho mille difetti, per cui... Io non piango quando un uomo si ammazza, il suo sangue non mi fa... E poi ci mettiamo sulla spiaggia a parlare un po' di noi, della nostra, del nostro essere maledetti. Un po' contro tutti, un po' contro certe regole che ritenevamo non valide, un po' contro il mondo, ci piaceva un po' più. Io piango sulle nostre vite, due vite violentate. Ti senti vicino a certe persone, come a Luigi, come a Piero, ti senti vicino a certe persone e non sai il motivo, ti ci senti attaccato, siamo figli della stessa matrice, insomma, non ci sono spiegazioni, è come quando incontri una donna che ti fa scattare qualcosa dentro. Che no. Siamo uguali, ecco. Siamo figli della stessa maledizione. Nel 2005 la New York University gli conferisce la laurea honoris causa in filosofia. La motivazione? Con tutto il resto è noia, ha scritto la più bella sintesi della filosofia dell'uomo latino. E quella canzone da allora è la sintesi di una carriera straordinaria e di un artista senza tempo. Per quanto riguarda la laurea honoris causa, l'ho tolta dalla cornice, dal salone, perché una volta quando l'ho presa io ce l'avevano Cossiga e ce l'aveva Edoardo De Filippo. Oggi ce l'hanno tutti, per cui per me la laurea honoris causa oggi non vale più nulla. Quindi via dal salone, via dalla mente anche. Però non mi ricordo anche più, quella è passata, tutto il resto di noi resta. Senza successo non è vita la nostra, no? Senza applauso dove andiamo? Hai voglia di dire vado a guadagnare un sacco di soldi, ma il vero artista, l'artista che quello che è Iardo, quello che è artista e uomo tutto attaccato, va cercando molta gloria. Ma attacco a sta città che sei addormita già da un'ora. L'artista da oltre 20 milioni di copie vendute, autore di 400 brani musicali, è in uno stato precario di salute. Comunque, nell'agosto del 2012, riunisce a Roma 5.000 spettatori e continua ad esibirsi fino all'ultimo. Si conclude così una vita piena, senza regole. Una carriera senza fine, tra incisioni e concerti, e tournée in tutto il mondo. Ma che vada, fa finta che so gocce deruggiate. Poi me l'hanno detto i ragazzi dell'università, tu non hai bisogno di morire per diventare leggenda. È complimento. Vado randaggio in qualche vigoletto, cammino a piedi scarsi almeno finché tarsi, dormi e vedrai che manco me sentirai, Roma nuda.